Anche noi dalle cosche siamo affezionati a voi, cari picciotti. Come dalle cosche? Cari picciotti, oggi festeggiamo. Perché? Perché questo governo finalmente ci siamo tolti dai coglioni. Quel pezzo di merda di ministro degli interni che veniva a romperci il cazzo a casa, violando la privacy, violando la nostra privacy. Questo non era un governo democratico. Adesso finalmente ci sarà un ministro degli interni meno spaccapalle di quel Maroni de merda. Che veniva a romperci i coglioni, veniva a cercare il latitante nella sua casa. Questo stiamo parlando con un boss, tranquillo, negli affetti familiari lo veniva a disturbare quel porco, quel pezzo di merda di ministro degli interni Marone. Collegamento Marone. Particolare con un boss, no, collegamento particolare con un boss mafioso. Queste richieste non ci piacciono, non ci piacciono. Finalmente ce lo siamo tolti dai coglioni. Ma chi è?